Eccoci qua, allora, alle 8:16 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. Siamo con uno dei protagonisti, certamente, della politica in questo momento, vale a dire il sindaco di Firenze, Matteo Renzi. Buongiorno e ben ritrovato. Buongiorno a lei, buongiorno a lei e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Tutto pronto? Scorte, gomme gonfiate del camper, tra due giorni parte per l'Italia? Scorte di cibo. Uno di quelli che la scorta l'ha sempre rifiutata, giustamente, perché farebbe ridere i polli il fatto che un sindaco dovesse andare a girare. Fa subito il malizioso, il cibo, intendevo. Quello c'è, anche perché anche se tutte le notti, praticamente quasi tutte le sere, torneremo a Firenze, come è giusto che sia per un sindaco che deve comunque continuare a fare il suo lavoro. Però il camper è pronto. Lo serigrafiamo adesso, ecco. Mettiamo sopra la scritta e il logo adesso. Adesso, ecco, l'ho vista, e questa è la parola chiave, sarà adesso, l'ho vista sulla stampa, credo. Il nostro momento è adesso. Ecco, però ho anticipato la mia prima domanda, perché molti le hanno detto: perché non si dimette da sindaco visto che parte in questa nuova avventura? Mi fa morire da ridere questa cosa. Sembra che uno debba abbandonare il proprio incarico come se fare il sindaco non avesse a che vedere con la politica. Cioè, io non è che sto facendo il sindaco come un amministratore di condominio, sto facendo il sindaco della città di Firenze, che non è nel Granducato autonomo della Toscana. Se mi impegno nella politica nazionale è perché i nostri territori abbiano poi delle risorse in più. Casomai la vera considerazione sarebbe: ma dopo, se vinci, bene, ma se perdi, lasci il tuo ruolo e vai in Parlamento a farti dare uno stipendio che è tre volte tanto, a farti dare il vitalizio, o rimani a fare questo? Io ho detto: se perdo le primarie, spero di non perderle, che c'entra, ma se le perdessimo, io resterò a fare quello che i fiorentini mi hanno chiesto di fare. E per il chiaro, per la logica della politica è un po' strano questo. Di solito quando uno perde le primarie si accomoda con in Parlamento, di consolazione in Parlamento. Invece lei in Parlamento proprio non ci vuole andare. Se perde le primarie, rimane a fare il sindaco. Le primarie penso che si debba anche affermare l'idea che in questo paese si può anche perdere. Ma lei è sicuro? Federica Pellegrini ha perso una finale olimpionica, l'hanno massacrata, l'hanno maciullata. Ecco, questo è un paese nel quale si continua a dire: chi perde è un fallito. Io penso che sia un fallito chi non ci prova mai. Il vero marchio di infamia è non provarci. Ma lei è convinto al 100% che ci siano queste primarie? Ma io mi fido di quello che ha detto Bersani, perché non dovrei fidarmi di ciò che ha detto Bersani? Bersani ha detto: il PD è nato con le primarie. Una classe dirigente che vuole sfidare il futuro non può certo aver paura dei propri elettori, per cui facciamo le primarie libere, aperte e democratiche. Io ci credo, non credo di essere un ingenuo, mi sembra l'unica cosa che il PD può fare. No, ma certo, ci saranno, però ci sono ancora dei dubbi. Sarebbe bello se lo facessero anche gli altri ogni tanto le primarie. Anche gli altri. Ma insomma, se anche il centro facesse le primarie, non sarebbe mica una cattiva idea. Se le facesse anche il centrodestra. Sa cosa scrive oggi Repubblica? Non so se l'ha già letta. Repubblica scrive questo: è il retroscena più interessante su di lei. Se Renzi perde le primarie, forse si candida con Italia Futura di Montezemolo. E hanno mangiato male a Repubblica oggi, che le devo dire? Non esiste, l'ho detto in 18 lingue. Io non sono pronto a tutto pur di andare a occupare una seggiola. Io sono il sindaco di una città, credo, importante, la città naturalmente, e da questa città mi sono accorto che questo adesso è il momento nel quale poter provare a restituire un minimo di speranza agli italiani, e non soltanto a fare l'elenco della spesa dei piagnistei che tutti i giorni vediamo sul giornale. E molto liberamente, insieme a tanti altri sindaci da tutta Italia, ci siamo messi in gioco dicendo: abbiamo alcune idee, alcuni progetti precisi, se vuole ne parliamo. A fronte di questo, più che dire che se perdiamo noi non fondiamo l'ennesimo partito o cambiamo casacca, io quelli che quando perdono portano via parole non li sopporto proprio, non li sopporto, perché è ingiusto. E quindi noi, se perdiamo la primaria, saremo lealmente dentro al Partito Democratico, rispettando chiaramente. Quindi lei e Montezemolo non ci sarà nessun tipo di punto d'incontro, oppure ci può essere qualcosa? Ma io non credo che la questione sia il punto di incontro tra gruppi dirigenti. L'unica vera questione è capire se c'è un programma chiaro che i cittadini ti affidano, per evitare di fare come abbiamo fatto, specie noi della sinistra, in passato. Cioè, siamo andati al governo e poi non sapevamo che cosa fare, perché dovevamo trattare tra Bertinotti, Mastella, Dini. Se invece alle primarie dici prima che cosa vuoi fare e questo elenco e questo programma diventa impegnativo e vincolante, non hai problemi di continuare a fare le trattative con i singoli dirigenti. Io non credo a questo modello, e mi piacerebbe anche che i giornali ci aiutassero a far capire quali sono le nostre idee. Ecco, non appunto, perché spesso di retroscena. No, ma infatti, perché dicono Renzi fa rottamatore, ma è un contenitore vuoto. Cioè, cosa c'è nel programma di Renzi? Ci sono tante idee, però per ora tanto si è parlato del fatto che lei vuole rottamare, tra virgolette, quelli che ci sono, ma che cosa propone di nuovo? Mi dica i tre punti salienti, se fosse premier in questo momento Renzi, che farebbe? Le prime tre cose. Le prime tre cose sono innanzitutto modificare totalmente l'impostazione dello Stato, perché la burocrazia che oggi avviluppa e opprime anche gli enti pubblici, non soltanto i cittadini, è un elemento non solo di mancanza di efficienza, ma anche un elemento di freno economico. A me capita di avere delle aziende che non investono nel mio territorio soltanto perché hanno paura dei tempi drammatici della burocrazia. Da questo discende, non vorrei addormentare di mattina presto i suoi ascoltatori, ma da questo discende una riorganizzazione del Parlamento. Oggi abbiamo Camera e Senato fanno le stesse cose. Abbiamo da dimezzare il numero dei parlamentari, sono troppi. Abbiamo da riorganizzare il sistema che dalla periferia porta a prendere le decisioni. Non si sa che cosa deve fare un comune, o comunque se la cosa la fa il comune, che so, a livello urbanistico, poi ci mette in bocca anche la provincia, la comunità montana, la regione vocifera, poi va in corte costituzionale sulla base della riforma del titolo quinto. Non vorrei essere noioso, ma c'è un tema burocratico che noi sindaci conosciamo bene, perché ne siamo vittime. Poi magari agli occhi dei cittadini sembriamo i colpevoli, ma ne siamo vittime perché siamo oggettivamente costretti a un tour de force tra varie istituzioni che è pazzesco. Quindi il primo tema è la burocrazia. Snellire la burocrazia. Mi dica invece una cosa sul lavoro, cioè le chiedo questo: ieri ha visto gli operai dell'Alcoa a Roma, lei un po' li capisce quegli operai in piazza? È evidente che quando tu hai delle persone che stanno perdendo il posto di lavoro e che quindi immaginano di tornare a casa e di non riuscire magari neanche non soltanto a sostenere l'aspetto economico della vita familiare, ma di non riuscire a sostenere lo sguardo dei figli, è comprensibile che ci sia un atteggiamento di rabbia. Anche aggressivo, così ci hanno aggredito, ovviamente, anche rischiavano fisicamente Fassina, che sappiamo è un suo avversario politico. Lei spesso vi siete beccati. Ho detto subito che ho mandato un abbraccio a Fassina, sto dicendo che il fatto che uno possa capire la rabbia non significa che possa giustificare le reazioni. Certo. Non soltanto verso un dirigente politico quale Stefano Fassina, a cui va il mio abbraccio naturalmente, ma anche verso le forze dell'ordine, che spesso i carabinieri, i poliziotti, gli agenti della Guardia di Finanza che stanno in queste manifestazioni si prendono gli insulti, gli sputi, talvolta anche le botte, avendo una situazione davvero, senza andare a citare Pasolini, di assoluta di ingiustizia, perché è la cosa più assurda che ci possa essere. Lei però mi chiede del lavoro, io non voglio sottrarmi alla domanda. Sì. Io credo che l'Alcoa sia un simbolo, insieme al Sulcis, insieme per altri aspetti in modo molto diverso, all'Ilva, di una politica industriale che ha sempre avuto paura del futuro, perché ha sempre mandato nel futuro, utilizzandolo come una gigantesca discarica, i problemi che non riusciva a risolvere. Che senso ha aver dato dal 96 ad oggi 2 miliardi di sussidi pubblici alle aziende, alle proprietà che si sono succedute nell'Alcoa? Che senso ha continuare a immaginare di poter sostenere con il denaro pubblico, che non è il denaro di nessuno, ma è il denaro di tutti, delle aziende che lì non ci possono stare? Allora chiediamo alla multinazionale che c'è lì di restituire gli aiuti di Stato e apriamo un progetto vero nell'arco dei prossimi 6 mesi per dare da un lato le garanzie di welfare ai lavoratori. I lavoratori devono essere garantiti, è naturale, specie in un territorio come la Sardegna che non offre al momento grandi chance occupazionali. E poi garantire il lavoro. E contemporaneamente cambiamo però la destinazione. Se si vede che non ci si fa più ad andare avanti, che so, con il carbone del Sulcis, perché non rende? È 30 anni che sappiamo che quel carbone non ha forza, diciamo, arriviamo a pagare il risultato adesso. Ma io, alla luce di quello che succede, lei direbbe ancora sempre con Marchionne, senza se e senza ma? Non ho mai detto sempre con Marchionne, ho detto sul referendum che Marchionne aveva proposto. Io mi hanno chiesto che cosa avresti fatto se tu fossi stato un dipendente Fiat, ho detto avrei votato senza se, senza ma, a favore. Perché? Perché allora Marchionne propose un'alternativa secca, che a qualcuno suonò come quasi un ricatto. levi pure il quasi. E cioè, o voi mi date le risorse dicendomi di sì e io metto 20 miliardi sul piatto, oppure io vado via dall'Italia. A fronte di questo out-out, io, e non solo io, penso a Piero Fassino, a Sergio Chiamparino, ci dichiarammo sostenitori del sì al referendum. Il punto è stato che il referendum è passato, come pare il 53%, sì. Adesso non ricordo precisamente la percentuale. Di poco ma è passato. Di poco ma è passato, però Marchionne non ha fatto l'investimento che aveva promesso, il progetto Italia di cui c'era parlato. Quindi è deluso un po' da Marchionne. Ma io non credo di essere deluso, io credo che un politico dovrebbe chiedere conto delle promesse fatte in quella campagna referendaria e dire scusa, non avevi detto che mettevi 20 miliardi di euro, anche perché Marchionne è sicuramente un punto di riferimento nella politica industriale americana. Io sono stato a Charlotte, in North Carolina, dove durante la convention democratica negli schermi appariva anche il video di Marchionne come uno dei protagonisti. Sì. Di questa ripartenza dell'industria americana. Ma in Italia la Fiat ha qualche colpa da farsi perdonare, perché per anni Fiat è ricorsa alla cassa integrazione pubblicizzando i debiti quando le cose non andavano e privatizzando gli utili quando invece le cose andavano bene. Io speravo che con Marchionne si potesse fare un progetto industriale. Ora bisogna chiederne conto, ma la polemica ideologica nei miei confronti, perché ho detto che avrei votato sì al referendum di Marchionne, non c'è, non c'è. Si tradisca la mancanza di una discussione di merito. Parliamo davvero di lavoro, di come fare a investire. Ma ci sarà tempo, lei ne parlerà tutto in questo giro per l'Italia. Ma intanto le volevo chiedere, perché ho ancora due o tre domande, che c'ha con Veltroni? Adesso con Veltroni se l'è presa. Ma perché io ce l'ho? Ma dai, dire che è un buon romanziere è un modo per dire. Chiambretti, che come dire, il noto filosofo della politica Chiambretti. Ah, scherzava. No, non è che scherzavo, mi ha chiesto se la rottamazione, che cos'è la rottamazione? Sì. Non il fare a meno degli anziani, ma l'idea che se tu sei stato 15 anni in Parlamento, anche basta, puoi lasciare spazio ad altri, succede per i sindaci dopo 10 anni, io continuo a dire una cosa così banale, di dire ragazzi, si può fare anche un po' per uno, il ricambio, mettetene altri, avendo premesso che se perdo io non ci vado, lo faccio per ringiovanire e anche per cambiare la classe politica. Bene, la domanda, ma vale anche per Veltroni? E fatto perché per Veltroni che c'è il fiocchetto rosso? No, è chiaro che vale anche per una persona che io stimo come Walter Veltroni. Quindi anche per Rosy Bindi, che in questo momento mentre lei parla è in TV alla 7, vedo Rosy Bindi che parla. Glielo dico come fatto di cronaca. Ma io evito di far battute, l'ho visto, come sono diventato molto più prudente rispetto a prima. Bene, non faccio una questione di nomi, dico soltanto che tutti coloro che sono stati per tanti anni in Parlamento, nessuno può pensare di dire se vale quel principio, però io no. E la battuta sul romanzo era una battuta molto semplice, dicendo ma allora nel futuro dovrà scrivere libri. Ha scritto anche un libro bello adesso, glielo presento. Infatti domenica credo vada a presentare. Un'ultima cosa, Grillo. Però che noia questa no, roba. No, infatti, va bene. Il codice del lavoro non si può parlare di burocrazia, di wireless. Beh, però che noia, però un po' anche lei ci mette sempre il carico da 90 contro questi qui. Domandare lecito rispondere a cortesia, se certo. Lei mi domanda, ma è stato lei peraltro, sì. Ma vale per tutti? Beh, per tutti quelli che sono lì, sì. Però mi piacerebbe soprattutto, più che rottamare le carriere politiche, rottamare alcune idee vecchie. Sa che l'altro giorno guardavo una statistica che dice che la Salerno-Reggio Calabria è costata all'ANAS più di quanto la sonda Curiosity su Marte è costata alla NASA. Certo, siamo andati su Marte ma non andiamo a Reggio Calabria. È la dimostrazione che bisognerebbe rottamare un certo modello di infrastrutture dove un chilometro di autostrada intera costa il doppio della Germania. Ecco, io voglio rottamare la vecchia classe dirigente, perché queste cose non le ha discusse, non le ha fatte. Cioè ha chiacchierato tanto ma ha compicciato poco, per dirla con... L'ultima cosa è questa, Beppe Grillo fa davvero paura in termini elettorali? Cioè avete un po' paura di Beppe Grillo? Può darsi che possa sembrare arrogante questa risposta, e magari lo è. Io credo che se il PD facesse le cose serie dal punto di vista della lotta all'antipolitica, noi non avremmo problemi con Beppe Grillo. Mi spiego. Beppe Grillo dice un sacco di cose assurde e allucinanti. Lei pensi a quella sulla mafia che non uccide, alle vergognose espressioni sull'AIDS o a tante altre sue contraddizioni che sono tipiche di chi peraltro in questi anni ha fatto la fortuna facendo il testimonial delle grandi multinazionali, oggi si scaglia contro il capitalismo, ha fatto la fortuna spaccando i computer e poi oggi è il principale blogger. Bene, quali sono però le cose su cui Beppe Grillo incrocia il sentimento profondo della gente? La casta. Allora, lei immagini che domani mattina Bersani va in Parlamento e deposita una proposta di legge del PD per dimezzare il numero dei parlamentari. Io nel nostro progetto, che partirà da da giovedì in camper presenteremo la proposta di dire alla Camera il compito di legiferare e al Senato fare soltanto le autonomie locali, cioè i sindaci e i presidenti della regione, così superiamo quello che si chiama bicameralismo perfetto. Dicevo, se il PD proponesse di dimezzare il numero dei parlamentari, di dimezzare l'indennità, lei consideri che oggi il sindaco di Milano prende un terzo, il sindaco di Milano che è quello che guadagna di più dei sindaci, prende un terzo di quello che guadagna un parlamentare. Se facesse questo, Beppe Grillo, che fai? Disinnescato in due secondi. Se tu elimini i vitalizi, perché io sono favorevole a riformare le pensioni, siamo più di prima, è naturale che si debba riformare le pensioni, però mi spiega perché le pensioni le riforma una classe dirigente che ha due pensioni, perché c'è anche il vitalizio. Allora, l'elenco potrebbe continuare. Se il PD questa battaglia in testa e smette di giocare di rincorsa, beh, troverà un sgonfiamento del movimento di Beppe Grillo, sul quale, termino, ma guardi, è imbarazzante vedere i consiglieri regionali di Beppe Grillo che vengono beccati nel fuori onda, non tanto a lamentarsi della scarsa democrazia interna, questo è un problema loro, ma a dire il contrario di quello che dicono in televisione. Vi spiego, a me possono dire di tutto, che magari delle volte sono un po' tranchant, anche un po' maleducato, come mi dice qualcuno, perché chiedo la rottamazione. Però nessuno mi può mettere in discussione sul fatto del diciamo, a proposito del fatto che io dica quello che penso e lo dica in faccia, chiaramente, in modo trasparente. Secondo me è arrivato il momento di una generazione di politici che non giochi ai soliti giochini di dirsi dietro le cose. Mi ha molto colpito che quel consigliere regionale di Grillo in televisione dica A e poi nel fuori onda dica il contrario. Ci vuole una faccia sola. Una faccia sola. Intanto io la ringrazio, buon viaggio, le faccio sapere che D'Alema ha fatto sapere che non è ancora nonno, le piacerebbe molto essere nonno, spera presto di diventarlo, ma non lo è ancora, ecco, ne prenda atto. Non è ancora formalmente nonno D'Alema, quindi buona giornata Massimo. Non so come reagirà Wall Street a questa notizia. Grazie a Matteo Renzi, sindaco di Firenze del Partito Democratico.